Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, parliamo questa sera di un episodio dimenticato ma opportunamente riesumato da un giornalista italiano, Pierluigi Vercesi, che ha scritto Il Marine, storia di Raffaele Minichiello, il soldato italoamericano che sfidò gli Stati Uniti d'America, pubblicato da Mondadori, 238 pagine, 18 euro. Perché ho parlato di opportuna riesumazione di questo fatto? Perché la storia è curiosa, insolita e merita certamente di essere raccontata, anche per l'andamento quasi romanzesco che ha e per l'opportunità che dà di ritornare a riflettere su un periodo molto controverso del Novecento, cioè gli anni 60, in particolare gli anni che furono dominati dalla guerra e dalle polemiche sulla guerra del Vietnam. Quell'esperienza segnò in particolare il protagonista di questa storia, cioè appunto Raffaele Minichiello, che era un giovanissimo emigrante che era riuscito a entrare per autentica passione, non per rassegnata necessità di trovare un boccone di pane, ma perché ci credeva, era entrato nel corpo dei Marine e si era fatto molto onore appunto in Vietnam, salvo poi infilarsi al suo rientro nella vita civile in una diabolica spirale provocata dallo sgarbo che egli ritenne di aver ricevuto da quegli stessi Stati Uniti che con tanta dedizione aveva servito. Il Minichiello scatta allora una scintilla che lo porta addirittura a dirottare un aereo dal quale si farà portare dagli Stati Uniti in Italia, dove verrà poi arrestato, processato e condannato, salvo diventare una specie di eroe internazionale proprio per essersi opposto agli Stati Uniti. Adesso Pierluigi Vercesi ci spiegherà le ragioni di questo successo nell'opinione pubblica internazionale. Buonasera a Pierluigi Vercesi. Buonasera. Pierluigi Vercesi, lei spiega nelle prime righe di questo libro che in fondo non è stato lei a scoprire questa storia, ma questa storia che ha scoperto lei. Sì, molto casualmente, una storia che non conoscevo, ma che appena l'ho avvertita mi sono reso conto che mi avrebbe consentito di raccontare un periodo particolare, il 68 e la guerra del Vietnam, da una visuale totalmente differente. Ed è stato tutto molto casuale, perché il soggetto di questo saggio mi venne a cercare dopo aver letto un articolo apparso sul giornale che allora dirigevo, 7 del Corriere della Sera, per dirmi che era tutto sbagliato, perché lui era stato nella guerra del Vietnam e non era come l'avevamo raccontata noi. Io misi in tasca un suo biglietto da visita e me ne dimenticai. Poi un giorno mi ritrovai il biglietto da visita, misi quel nome dentro internet e mi apparsero centinaia e centinaia di siti americani che parlavano di lui come dell'uomo che aveva ispirato Rambo, e con una storia che io non conoscevo e che mi lasciò così strabiliato, per cui lo richiamai e da lì cominciarono 6 mesi di racconti e di verifiche mie, perché andai a verificare tutto almeno su 2 fonti per poter raccontare questa storia che ha del fantastico. E lei alla fine definisce la vita del suo protagonista, di Minichiello, una vita quasi cinematografica, infatti. Sì, è una vita cinematografica, perché quest'uomo è tuttora nel Guinness dei primati, perché a 20 anni, il giorno del suo 20° compleanno, aveva già fatto tutto, aveva passato 13 mesi nel Vietnam, era stato decorato come eroe di guerra, cosa rarissima all'epoca, era italo-americano immigrato, quindi aveva vissuto nell'Irpinia, aveva vissuto il dramma dell'immigrazione, dell'essere preso in giro, eccetera, eccetera, e poi a un certo punto, per essersi sentito tradito dall'America, per cui lui aveva messo a disposizione la sua vita in Vietnam, fece un'azione incredibile, cioè dirottò un aereo per 18 ore da Los Angeles, passando per Denver, per New York, per Shannon in Irlanda, fino a Roma, e tra l'altro beffando l'FBI, che era in quel momento coordinata personalmente da Hoover, il fondatore dell'FBI, il grande cattivo dell'FBI che abbiamo visto anche nel film JFK, beffandolo e riuscendo ad arrivare in Italia, e poi comunque per tutta questa operazione, che negli Stati Uniti veniva condannata con la pena di morte, cavarsela con 1 anno e mezzo di galera e soprattutto diventare involontariamente un eroe e il mito di tutti i pacifisti, gli anti-guerra del Vietnam del mondo. E tutto questo per una sorta di guerra personale contro gli Stati Uniti. Una guerra personale per una stupidaggine, nel senso che tutto avvenne per $200 che mancavano sul suo conto depositato presso la cassa dei Marines. ma non era nemmeno quello, è che a un certo punto lui protestò per questa cosa, il colonnello che stava dietro alla scrivania mentre lui era fresco di Vietnam gli disse: ah, il solito italiano che vuol fare il furbo. E lui, che era andato in Vietnam apposta per far dimenticare che era un immigrato, eccetera, eccetera, aveva dato la sua vita agli Stati Uniti, si era risentito dire quella cosa che alle scuole medie, insomma, che aveva frequentato a Seattle, si sentiva dire tutti i giorni, dalla quale voleva fuggire. A quel punto lui ha fatto una stupidaggine minima, cioè entrò nello spaccio e si prese 200 euro di stupidaggine, aveva bevuto talmente tante birre che si addormentò lì. A quel punto il giudice civile lo perdonò perché diceva sì, il Vietnam eccetera, non farlo più, ma il colonnello volle mandarlo davanti alla corte marziale per prenderlo come esempio, e quindi lui non tollerò questa, non accettò, aveva ancora 19 anni, questa ingiustizia subita, e ha fatto una cosa che è entrata appunto nel Guinness dei primati. Attraverso questo io volevo raccontare quel mondo lì, dei giovani che pensavano attraverso la guerra del Vietnam di cambiare il mondo, sia da una parte che dall'altra. Perché lui l'America l'amava molto in quel momento, in quella fase. Lui l'America, lui voleva ad ogni costo essere americano, però si era sentito tradito e allora aveva pensato di fare questa azione per dimostrare al mondo come veniva trattato uno come lui, che aveva dato tutto, che aveva... Questa operazione venne vissuta, addirittura io ho rintracciato in una libreria antiquaria di New York il numero di dicembre del 69 di Poets Dos, che era la rivista ciclostilata cult dei poeti antimilitaristi, e questo ragazzo, non dico semi-analfabeta, che parlava male l'inglese, parlava male l'italiano perché parlava l'irpino, che aveva fatto questa azione, a un certo punto venne preso ad esempio da tutti i poeti laureati nelle migliori università americane, che gli dedicarono la copertina in una poesia dal titolo Hullo Raffaele Minichiello, Goodbye Jack Kerouac. Hullo, che vuol dire ciao, ma figo, Hullo con la U. Figo Raffaele Minichiello, Goodbye Jack Kerouac, perché 9 giorni prima era morto Jack Kerouac e questi avevano scelto Raffaele Minichiello come il continuatore della strada. Ora la strada di Raffaele Minichiello, cantavano nella poesia, ha preso i cieli di Raffaele Minichiello. Quindi un eroe totalmente involontario. E Raffaele Minichiello, che dai giornali americani è raccontato come un Rambo, ai miei occhi è una specie di Forrest Gump. Questo entusiasmo non depone a favore degli entusiasti probabilmente, ma comunque interessante, perché tra l'altro esso si manifestò, l'entusiasmo, già fin dai primi giorni di carcere italiano, quando Minichiello ricevette centinaia di messaggi, di lettere che inneggiavano le sue imprese. Ma ci fu persino il telegramma della vedova di Bob Kennedy, ucciso un anno prima nella campagna presidenziale, che gli disse bravo, perché tutti pensavano che lui l'avesse fatto per protestare contro la guerra nel Vietnam, lui in realtà l'aveva fatto per protestare contro un'ingiustizia che aveva colpito personalmente l'immigrato marine Raffaele Minichiello. Quando poi maturò, Minichiello rimase comunque un personaggio semi-anarchico, possiamo dire. Sì, lo continua ad essere adesso, perché dopo una serie di vicende, perché la sua vita poi è continuata con storie piuttosto difficili e pesanti che lui ha vissuto, a un certo punto lui oggi lo si trova in giro che va a regalare Bibbie, perché a un certo punto si converte ai Gedeoni e lui va, è il presidente dei Gedeoni, che è una chiesa evangelica americana, e porta in giro, sono quelli che mettono le Bibbie negli hotel, per intenderci. E però lui oggi, io in questi 6 mesi che l'ho frequentato a lungo, andavamo in giro e parlava di Bibbie, ma al tempo stesso appena salivamo su un tram cominciava a mettersi in un angolo e calibrava tutte le vie d'uscita e come comportarsi. Quindi è un uomo che è rimasto un marine convertito, in una sua anarchia tutta personale. Lo presenterà con lui il libro? Assolutamente sì, perché lui è un personaggio che va conosciuto, ha fatto delle cose fuori dal comune, anzi delle cose assolutamente per certi versi assurde, per certi versi eroiche, e al tempo stesso però ha un'ingenuità tutta infantile che conquista, è un personaggio unico. Grazie a Pierluigi Vercesi, autore di Il Marin. Buona serata. Grazie a voi, grazie. E a questo punto... Il confettino. Facciamo un salto indietro nel tempo per piombare negli anni 50, che sono rievocati da un particolare punto di vista da Teresa Buongiorno, che ha scritto Vacanze pericolose per la prima volta all'estero da sole, pubblicato da Salani, 134 pagine, 13,90 €. L'autrice, una storica di formazione, poi giornalista e scrittrice soprattutto di libri per ragazzi, e questo è un romanzo appunto per lettori già grandicelli, e rievoca la vacanza di tre ragazze per la prima volta da sole in Costa Azzurro, appunto nel primo decennio successivo alla guerra. Una vacanza di libertà naturalmente, ma anche di scoperte interessanti a partire da quella di Picasso. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci sentiamo fra pochi istanti. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15:30 tutti i giorni su Radio 24. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Prima di andare avanti con libri che ci fanno riflettere su come eravamo nei vari decenni della storia passata, vi segnalo una mostra che è stata appena inaugurata a Pordenone alla Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea Antonio Pizzinato. La mostra si intitola Il mito del pop, percorsi italiani, è curata da Silvia Pegoraro e percorre un intenso periodo che si avvia a metà degli anni 60 e che trova a Milano e a Roma i due centri principali, con la scuola di Piazza del Popolo nella capitale e la Galleria Marconi nel capoluogo lombardo. Da qui passano i più importanti artisti italiani dell'epoca, sollecitati dagli sviluppi dell'arte negli Stati Uniti, che troveremo appunto in questa mostra. Negli anni del boom, che corrispondono appunto a quelli che sono oggetto della mostra di Pordenone, si manifesta anche il lancio di tanti oggetti che sono diventati popolarissimi, e quindi vi segnalo questo libro di Carlo Alberto Carutti, un ultranovantenne ingegnere umanista, così lo definisce Andrea Kerbacher nella prefazione, imprenditore, artista e collezionista, che ha scritto Boom, gli oggetti del miracolo economico tra vita, passione e lavoro, pubblicato da Interlinea, 190 pagine, 18 euro. E qui troviamo, con molte illustrazioni, oggetti appunto che sono diventati popolarissimi, che sono entrati nell'utilizzo quotidiano e nell'immagine collettivo. Ci sono quindi oggetti molto familiari come automobili, frigoriferi, registratori, ma anche applicazioni e invenzioni tecnologiche, dal moschito al freno elettromagnetico, alle presse per la carrozzeria della Fiat. Insomma, il meglio della tecnologia italiana, spesso accompagnato a grandi doti di bellezza funzionale che hanno impresso un carattere unico alla produzione industriale del nostro paese, grazie all'intuizione imprenditoriale anche di vari esponenti di cui nel libro pure si parla, per esempio i Borghi, i Fontani, i Fumagalli, gli Agratti. Quelli del boom furono anche gli anni della dolce vita, che sono ricostruiti in un libro di Oriana Fallaci, che raccoglie i suoi interventi, molti dei quali ormai introvabili, scritti sull'Europeo, al quale la Fallaci aveva cominciato a collaborare nel 1954. Questo libro si intitola L'Italia della dolce vita, è pubblicato da Rizzoli, 352 pagine, 20 euro, e qui troviamo, come potete immaginare, un'autentica miniera di fatti, personaggi, pettegolezzi, scandali, spettacoli che si snodano tra Roma, Capri e la Venezia del Festival del Cinema. Magistrale è la descrizione per esempio di Via Veneto, colta nell'intero passaggio di una giornata, dalla mattina quando è semideserta ed è frequentata soltanto dal solitario poeta Vincenzo Cardarelli, al pomeriggio quando si radunano gli intellettuali, alle serate con le coppie americane e alle nottate con le starlette che si fanno appunto vedere in Via Veneto. E lo stesso naturalmente per Capri o per Venezia. Ma anche è molto significativa la descrizione di molti personaggi che la Fallaci ritrae con la sua penna acuminata. Per esempio Alberto Sordi, al quale dedica queste righe particolarmente acuminate. Pochi italiani in questi anni privi di gloria sono amati nel nostro paese come Alberto Sordi. I suoi film vanno via come il pane. Coloro che non li hanno mai visti costituiscono un numero esiguo e ingiustificato. Le sue avventure amorose interessano quanto quelle di un re. È accertato che i giornali vendono più copie quando annunciano un suo fidanzamento di quando annunciano un divorzio di Liz Taylor. Il suo volto, che è pesante, infingardo, tutt'altro che bello, resta simpatico in uguale misura ai poveri e ai ricchi, ai giovani e ai vecchi, ai maschi e alle femmine, ai comunisti e ai cattolici. La sua ricchezza, che è enorme, si regge su proprietà edilizie e terriere, un gran conto in banca e sembra che oltrepassi di gran lunga il miliardo, è accettata senza proteste sia dagli ignoranti che dagli intellettuali. Gli intellettuali lo paragonano a Molière e quasi quasi vorrebbero vedere la sua testa sui francobolli. Né ciò accade soltanto perché diverte il tipo che recita sullo schermo. Vigliacchetto e arrangione, prepotente coi deboli e ossequioso coi forti, sempre pronto a correre in soccorso dei vincitori. Accade perché piace lui, il suo cinismo, il suo conformismo, il suo egoismo, la sua ingenuità, la sua semplicità, la sua mancanza di erudizione, il suo buon senso paesano. Abbiamo parlato degli anni 60, cari alla mia generazione, ma voglio sottolineare anche dei libri, un libro in particolare che riprende alcuni oggetti che sono fermi nella memoria delle generazioni più giovani. Anche queste generazioni evidentemente hanno già nostalgia della loro gioventù, della loro infanzia. E quindi parliamo degli anni 90, che vengono rievocati nel libro di un giovane che negli anni 90 era bambino, Mattia Bertoldi, che ha scritto La dura legge di Baywatch, tutto quello che avete amato negli anni 90, pubblicato da Booksaland, un editore di Anghiari, 190 pagine, 14 euro. E già comincia a impazzare, come dicevo prima, presso i trentenni, la nostalgia degli anni 90. Ma l'autore si chiede, e chiede soprattutto ai suoi coetanei: rimpiangiamo davvero quegli anni? Siamo tutti pronti a condividere su Facebook la foto di una penna e una musicassetta accostate con sotto la scritta "se conosci la relazione tra questi due oggetti hai avuto un'infanzia bellissima"? Ma saremmo anche disposti a tornare indietro? L'autore non rinega quegli anni, li rievoca volentieri, ma è consapevole che quelli sono stati anni di autentica transizione tra l'epoca prima di internet e il grande dopo, così la definisce. E l'ultima generazione, quella dello scrittore, nata analogico e diventata poi adulta col web. Di quegli anni troviamo qui una sorta di affettuoso museo nel quale troviamo oggetti e miti dal valore quasi archeologico, dai Power Ranger ai Pokémon, ai primi mastodontici telefonini, alle prime auto quattro ruote motrice, Dragon Ball, alla moda del codino, eccetera, eccetera, eccetera. Una riflessione diversa sulla memoria ci viene da un senior, il manager e scrittore Oddone Camerano, ottantenne, che l'ha scritto per l'Indau. Non mi lasciare, si intitola il suo libro, Breve viaggio nell'universo della memoria, 118 pagine, 12 euro. A chi lo scrittore chiede di non essere lasciato? Appunto alla memoria, che comincia a farci lecca. E allora, spiega Camerana, nel timore che non sia lontano il giorno in cui la mia smemoratezza raggiungerà livelli intollerabili, mi sono dato alla registrazione di episodi della mia vita, e scegliendo questi episodi perché essi possono svolgere una funzione curativa, di esercizio e di contrasto ai buchi che si andavano aprendo nella memoria. Insomma, la scrittura come una sorta di terapia mnemotecnica che diventa allora un modello per tanti, ai quali Camerana raccomanda anche alcuni esercizi. Per esempio scrive: per gli smemorati buona norma impiegare i momenti liberi della giornata a recitare codici, PIN e numeri di cellulare. Ma non è un libro di mnemotecnica, questo è piuttosto una cronaca mai malinconica della consapevolezza di una fase della vita che occorre saper prepararsi ad affrontare e che manifesta un approccio originale al tema della memoria, vista anche attraverso alcune opere, alcuni riferimenti anche letterari, come per esempio questo di Casanova. Avvicinandoci ai nostri tempi e ai nostri costumi di vita, troviamo in Giacomo Casanova un eroe della memoria, come appare nelle parole di Stefan Zweig, che dedicò un breve saggio al famoso libertino appartenente alla stessa classe borghese a tinta artistica di Mozart e Beethoven. Se dunque si riconosce, come non si può non ammettere che era persona di vasta cultura, non si può fare a meno di riconoscere anche o soprattutto come ciò che faceva la differenza era la sua memoria prodigiosa, senza la quale non solo si sarebbe trattato di un patrimonio destinato a perdersi e a sfumare nel nulla come tanti altri, ma non si sarebbe tradotto nella storia della mia vita. Alla fine dei conti, ammettendo che la sua vita, come scrive Zweig, si conclude in piena bancarotta, nella povertà e nella dipendenza più lacrimevoli, mi riterrei colpevole se oggi fossi ricco, ma io non ho niente, ho scialacquato ogni cosa, non ho mai risparmiato nulla, né per me né per gli altri. Alla fine di tutto questo riconosco di non aver portato a casa in 70 anni altro che ricordi. Ricordi come rifugio, dunque, poiché mentre tutti lo credono pronto per il cimitero, nulla più che un aspirante cadavere, lui dalle memorie ricostruisce la propria vita e con avventurosa astuzia si introduce là dove ci si assicura l'immortalità. Prima di salutarci, auguriamo buon lavoro al presidente francese Emmanuel Macron, che è entrato in carica proprio domenica scorsa, di cui anche in Italia si può leggere il libro nel quale gli ha illustrato le proprie idee, Rivoluzione, tradotto da Sergio Recco e pubblicato dalla Nave di Teseo. Questo è un libro in cui Macron si presenta in modo sincero, racconta la sua vita, le sue idee, i suoi progetti per la Francia, progetti basati sulla convinzione che il mondo stia cambiando con un passo tale da non consentire di tornare indietro e di affrontare le questioni sul tappeto con gli stessi strumenti, le stesse idee, gli stessi uomini di prima. E queste idee riguardano anche direttamente l'Italia, perché Macron è un europeista e dedica un capitolo specifico proprio all'Europa, fondato su un progetto che si fonda sulla promozione della pace, della prosperità e della libertà. Un altro libro su Macron è quello di Mauro Zanon, che scrive per Il Foglio da Parigi, che si intitola Macron, la rivoluzione liberale francese, pubblicata da Marsilio, 160 pagine. Prima di lasciarci vi ricordo che il 23 maggio ricorre il 25esimo anniversario dell'assassinio di Giovanni Falcone, e lo ricordiamo con un libro di Giovanni Bianconi, che è un giornalista molto esperto di questi temi, scrive per il Corriere della Sera e che ha pubblicato con Einaudi L'assedio, troppi nemici per Giovanni Falcone, 396 pagine, 19 euro, dove troviamo un'attentissima ricostruzione del ruolo che Falcone svolse nella svolta che si ebbe verso gli anni 90 nella lotta contro la mafia, con la quale segnò la sua condanna a morte, di cui qui troviamo ricostruiti tutti i passaggi. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Valeria Bernardi in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, unlibro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.